9 in punto, la versione di Oscar. Oh, oh, buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino anche oggi vi tiene compagnia e vi pone una domanda esplicita, questa volta senza tanti giri di parole, perché volevo sapere l'opinione di alcuni ospiti e naturalmente ascoltare soprattutto la vostra intorno a una delle misure del pacchetto finanziario di rigore varato dal governo di emergenza presieduto dal professore senatore a vita Mario Monti, che ai miei occhi, lo dico esplicitamente all'inizio, quindi non mi nascondo dietro un dito, incarna più tangibilmente di tante altre e comunque soprattutto di tutti gli aggravi fiscali, ma tra tutta la batteria di aggravi fiscali che costituiscono oltre l'80% della manovra varata dal governo tecnico, alcune di questi aggravi ai miei occhi risultano incomprensibili, proprio a dirvi la verità, per le modalità e per i soggetti a cui si applicano, perché ai miei occhi incarnano una specie di principio di autocontraddizione, e un principio di autocontraddizione che, per la particolare natura dei soggetti a cui queste misure si applicano, identificano queste misure come pure e semplici vessazioni, autocontraddittorie dal punto di vista logico e poi vessatorie dal punto di vista degli aggravi aggiuntivi. Ce ne sono diverse, ma quella di cui ho deciso di chiedere la vostra opinione al numero verde 800240024 e ai messaggi, ricordo il numero per l'SMS 349-238-6666, è quella del divieto di pagamento in contante per le pensioni oltre i 1.000 euro. Allora, sappiamo tutti che nella manovra il governo Monti ha fatto scendere la soglia di tracciabilità e di utilizzo del contante, quindi a 1.000 euro, questo per le operazioni di pagamento sul territorio italiano dei residenti. La finalità dichiarata di questo limite di utilizzo del contante per noi tutti, per tutti gli operatori del mercato, è la lotta all'evasione fiscale. Già su questo io non sono molto d'accordo, a dirvi la verità, non sono molto d'accordo, non credo affatto che i tanti paesi in cui non c'è un limite al contante, come la Germania, come il Regno Unito, oppure non credo che i paesi in cui vi sia un diverso limite al contante, in Francia c'è per esempio un tetto mensile per le operazioni in contante che possono essere regolate dagli operatori, quindi l'amministrazione tributaria ha segnalazione se questo tetto viene superato da parte dell'intermediario finanziario. Io vedo per esempio intorno a me, mi limito a parlare di ciò che più direttamente conosco, che nelle ultime settimane diversi soggetti con i quali ho rapporti più o meno regolari tramite le società mie o per rapporto di fornitura, e che sono su una soglia, diciamo così, interessata o poco sopra o poco sotto da questi limiti di tracciabilità, mi hanno chiesto o fatto capire di passare direttamente al liquido, mentre io prima procedevo con regolare bonifici. Quindi, dovessi giudicare dal mio piccolo, vedo innanzitutto che l'effetto per il momento che constato, quello di un aumento, non di una diminuzione nel tentativo di evadere. Però, diciamo, ho delle riserve generali su queste modalità, che invece so essere molto popolari, perché la quantità di SMS e di mail che abbiamo sempre ricevuto a favore dell'abbassamento della soglia dell'utilizzo del contatto è molto alta, prevale molto su coloro che hanno un'opinione diversa. Ma mi chiedo, una volta che si adotta questa misura del limite dei 1.000 euro per le regolazioni in contante da parte degli operatori, qual è la logica per la quale lo Stato adotta questo stesso criterio nel pagamento ai pensionati? Perdonate. utilizzando l'obbligo a formalizzare su un conto deposito una carta di credito, vi illustreremo anche le modalità. Che cos'è? È lo Stato che si autotutela dal fatto che poteva lui compiere degli illeciti? Come ovvio no. Quindi per questo innanzitutto la misura è illogica, non discende per conseguenza dal limite del contante posto a noi, ai cittadini, anzi ai sudditi, perdonatemi, dello Stato. Lo Stato dovrebbe partire dalla presunzione che le sue operazioni sono regolate tutte in chiaro, è ovvio, no, che è così. Quindi innanzitutto c'è una contraddizione logica evidente, proprio grande come un grattacielo, che mi fa dedurre che evidentemente questo limite viene posto per obbligare ulteriormente, e qui veniamo alla seconda caratteristica negativa ai miei occhi, una fascia ancora più estesa dei sospettati di illeciti fiscali e finanziari, i pensionati, i 450.000 pensionati che hanno poco più di 1.000 euro di pensione, di essere loro a quel punto i soggetti di possibile evasione, tant'è vero che loro vengono costretti a formalizzare in conti correnti, conti di risparmio, carte di pagamento, ciò che dallo Stato ricevono. Quindi il problema non è tanto la misura illogica che lo Stato fa discendere dal limite che ha posto a noi per la regolazione in contanti delle operazioni di pagamento, ma è invece il vero obbligo conseguente di formalizzare l'utilizzo di quel denaro per pensionati. Quindi siamo al punto, se ho ragione io, può essere che voi non siate d'accordo su questa prima illogicità e secondo sulla conseguente vessazione a carico dei pensionati, che non sospettavo essere in cima alla graduatoria degli ipotetici Arsène Lupin che violano il patto fiscale, che ai miei occhi questa misura è particolarmente incarna ciò che meno mi piace di uno sforzo di coesione per il risanamento della produttività, per il quale, come sapete, tutti i giorni da molti mesi su questa rete noi spezziamo tutte le lance che abbiamo, le abbiamo praticamente finite e ce ne inventiamo sempre di nuovo ogni giorno. Allora, dico questo perché sono dell'idea che tanto più bisogna dare una mano perché un paese stia in piedi quando gli spread ballano, tanto meno però bisogna dimenticare che c'è un limite di ragionevolezza. La ragionevolezza deve essere sempre il faro che guida noi cittadini nel momento nel quale veniamo tutti chiamati a contribuire. Ricordate, ieri vi ho letto una frase, anzi l'ho ricordata a memoria, di Jefferson, che è piaciuta a molti. Oggi ricorro a un'altra frase alla fine di questa introduzione, che è dell'abate Mably, quindi stiamo parlando di un classico dell'illuminismo. È sempre a proposito della disobbedienza civile rispetto all'irragionevolezza che talvolta è incarnata dal comando pubblico. E cosa scriveva l'abate Mablini sui diritti e dei doveri del cittadino? Scriveva questo: noi siamo d'accordo, come su una incontestabile verità, che il cittadino deve obbedire al magistrato e il magistrato alle leggi, ma dal momento che gli uomini sono sempre portati alla tirannia o alla schiavitù delle passioni, allora, talvolta, anzi spesso, finiscono per assumere leggi abbastanza sciocche, ingiuste, assurde, e in quel caso quale altro rimedio potrebbe applicarsi a questo male se non la disobbedienza? Ne nasceranno gli sconvolgimenti, diranno i più preoccupati per la tenuta dello Stato, ma perché se ne dovrebbe avere terrore? Questi stessi sconvolgimenti sono una prova che si ama l'ordine, che si vuole ristabilirlo, la cieca obbedienza del cittadino è al contrario una prova che il cittadino è instupidito, indifferente al bene e al male. E in tal caso che cosa volete sperare? L'uomo che pensa, lavora per stabilire il dominio della ragione, l'uomo che obbedisce senza pensare si getta ai piedi della schiavitù. Ecco, questo è il motivo per il quale invito tutti a riflettere su questa misura dei 1.000 euro sui pensionati. È proprio vero che dobbiamo considerarla assunta una volta per tutte immodificabile? Io non credo. Comunque, vediamo come la pensano i nostri ospiti. Abbiamo innanzitutto Bruno Gambarotta, giornalista, scrittore, che saluto e ringrazio in questi primi minuti, perché ieri ha scritto sulla Stampa un articolo, una riflessione che mi ha molto colpito. Buongiorno Gambarotta. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, lei ha scritto di pensionati carne da sportello, questo era il titolo. Sì, in effetti così, io sono completamente d'accordo con lei sul fatto che è un'inutile vessazione. Sembra quasi che la società non tolleri che qualcuno possa sopravvivere senza mai mettere i piedi in una banca, in sostanza. Io mi ricordo, ho dei ricordi familiari, no? Mio padre che ritirava la pensione e poi la divideva in tanti piccoli contenitori, un tanto per l'affitto, un tanto per le spese di casa, un tanto per gli imprevisti, un tanto per l'abbigliamento, perché, come dire, erano abituati così, nel senso che poi i soldi, quando li vedi sul serio, li tocchi con mano, è diverso che spenderli in modo virtuale. Non è un caso che nei casinò uno non giochi con le banconote, non punti le banconote sulle roulette, ma punti delle fiche, punti dei pezzi di plastica che dopo 5 minuti uno dimentica che quel pezzo di plastica corrisponde a 100 euro, 1000 euro, eccetera, no? E quindi c'è questa, e poi questo obbligare le persone a tenere un conto corrente, a tener conto. Comunque avrà un costo questo conto corrente, no? Suppongo. Immagino che non glielo daranno gratis ai pensionati. Non si capisce perché non debbano avere questa cosa, perché comunque è tutta una tendenza a complicare la vita alle persone che vogliono comportarsi bene, no? Perché dicono che serve anche per sicurezza, così i pensionati sono meno derubati. Non è vero, non è vero. Adesso stanno l'ultima moda della delinquenza è far scoppiare i bancomat. Recentemente vicino a Torino hanno messo troppa carica, oltre che il bancomat sono bruciate anche le banconote, ma invece non esiste più che uno va a rapinare un pensionato che esce dalla posta. La delinquenza si è aggiornata, quindi non è vero questa cosa. E poi eliminiamo le code agli sportelli, le code alla posta, ma le code alla posta sono un momento di socializzazione. La maggior parte degli anziani vivono da soli, quindi andare lì e stare un'ora in coda permette a loro di trovare qualcuno con cui chiacchierare. Non è un problema per loro la coda, il problema è avere a che fare con questo tipo di cose, cioè non capisco perché, insomma. Io poi è giusto nutrire una sana diffidenza per le banche, no? Visto che quando c'è stato il crack della Parmalat nessun investitore istituzionale aveva più un bond della Parmalat, li avevano tutti i pensionati e i piccoli investitori, quindi voglio dire, non, perché sempre, non so, questo governo fatto dai banchieri non mi piace, questo sistema di voler a tutti i costi far sì che la banca sia pervasiva, non si possa farne a meno. Allora, io ringrazio Bruno Gambarotta per questa testimonianza, questa opinione. Io mi limito a circoscrivere questa opinione sulla misura dei pensionati, anche se ho detto e ripetuto che ho dei problemi generali sull'esame comparato del perché noi siamo arrivati a credere tutti che abbassando sempre più la soglia del contante siamo più efficaci nella lotta all'evasione. Vedremo, io me lo auguro. Nel frattempo io constato che intorno a me l'effetto è opposto, come vi ho detto, e non me ne stupisco, vedete, perché a rendere un ordinamento fiscale, come un qualunque ordinamento civile, penale o amministrativo, più eluso di altri in termini comparati, contribuiscono due caratteristiche che non sono mai smentite se uno fa un esame serio, storico, comparato di come sono evoluti gli ordinamenti. Il primo è quanto questo ordinamento è complicato, astruso, vessatorio. Tanto più lo è, tanto più è eluso. Poi tanto più è eluso in quanto maggiore è la complicatezza, l'astrusità e la vessazione, minore è la possibilità di essere identificati e puniti in caso ovviamente di violazione. Conclusione, la ragionevole presuntiva probabilità elevata, non voglio dire certezza, di impunità, rende la sottrazione a un ordinamento pesante, astruso e vessatorio più che un diritto, quasi un dovere. Io la penso così, so che vi faccio inorridire a voi che siete dell'idea che lo Stato, le tasse sono la cosa fondamentale. Per me la cosa fondamentale è attribuire una lezione a chi da decenni fa l'esatto opposto di quello che dice e ci chiede una quantità di denari sempre maggiore e ci indica come colpevoli, perché non ne diamo mai abbastanza rispetto al fatto che lui non è responsabile. Sto parlando della politica pro tempore, che non è affatto l'interesse generale, è una minoranza costituita in volontà generale, ma costituita perché noi per convenzione adottiamo questo criterio, è una minoranza pro tempore che ha sempre fatto i suoi interessi, ha sempre alzato la spesa corrente, ha sempre alzato le tasse. Questo punto bisogna che ce lo poniamo nel momento in cui l'Italia è un rischio di detonatore per l'intera area dell'euro, perché se additiamo i pensionati come potenziali contravventori valori del patto civile, secondo me abbiamo smarrito la bussola. Naturalmente mi addosso la responsabilità di essere minoritario. D'ora in poi vi spieghiamo invece come funziona. Abbiamo premesso le opinioni, ma adesso le teniamo in un angolo e tentiamo innanzitutto di spiegarvi, perché non a tutti è chiaro, che cosa capita per effetto di questa legge sulla tracciabilità del contanto. Dal prossimo 7 marzo appunto le pensioni che superano i 1000 euro non potranno più essere erogate in contanti, e quindi entro la fine del mese di questo febbraio i pensionati che sono oltre la soglia devono comunicare all'INPS attraverso quale canale intendono ricevere l'accredito, se conti bancari, se libretti postali, se carte ricaricabili. E a questo punto noi vi offriamo innanzitutto due illustrazioni tecniche da parte dell'INPS e da parte delle Poste di quali sono gli obblighi, le incombenze e le possibilità aperte di fronte a voi che siete in ascolto, e poi sentiamo anche l'opinione invece di un sindacato su questa materia. Quindi io innanzitutto saluto e ringrazio Antonio Mastrapasqua, il presidente dell'INPS, che è con noi. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Carolina Gianardi, che è responsabile privati imprese Bancoposta per Poste Italiane. Buongiorno e grazie alla Gianardi. Buongiorno. Allora, posso chiedere innanzitutto a lei, Gianardi, le Poste come fronteggiano questa scadenza e questo obbligo che è entrato nel nostro ordinamento? Che cosa concretamente cambia e che cosa concretamente Poste offrono ai pensionati per non complicarsi troppo la vita, e con quali costi, anche se possibile saperlo? Certo, allora ovviamente preso atto della nuova normativa, ma soprattutto dei tempi ristretti a cui lei accennava per adeguarsi, Poste Italiane mette a disposizione dei pensionati che devono procedere con l'accredito della pensione tre strumenti che sono sempre stati a loro disposizione, e faccio riferimento al conto corrente postale Banco Posta Più, al libretto di risparmio postale nominativo e alla INPS Card. Sono tre strumenti che possono, diciamo, soddisfare esigenze diverse finanziarie dei pensionati. Se partiamo, diciamo, dall'ultimo prodotto che ho citato, la INPS Card, di fatto si tratta di una carta prepagata sulla quale è possibile per i pensionati INPS accreditare la pensione. Viene richiesta allo sportello di un ufficio postale, non ha costi né di richiesta né di attivazione, viene spedita al domicilio del pensionato, che successivamente si reca all'ufficio postale per l'attivazione. E quindi è una carta che poi può essere utilizzata per prelevare presso gli uffici postali, presso gli ATM postali, gli ATM bancari, ed essendo anche dotato di un circuito internazionale può essere utilizzata laddove il titolare fosse interessato presso i circuiti convenzionati. Quindi questo è un primo strumento e consiste in una carta prepagata. Abbiamo poi il prodotto forse più tradizionale, che è il libretto di risparmio postale, anche questo non ha costi né di apertura né di gestione, anche su questo può essere accreditata la pensione. E per dare un riferimento, noi già oggi sui libretti postali abbiamo circa 2,5 milioni di pensioni accreditate, viene anche questo richiesto aperto allo sportello, e può essere dotata di una carta di prelievo che consente, oltre a prelevare in contanti presso lo sportello postale, anche presso gli ATM postali. Ed infine c'è il conto corrente Banco Posta Più, che è un conto corrente a tutti gli effetti e che diciamo si caratterizza per una promozione proprio per cercare di venire incontro alle esigenze attuali, per cui il conto Banco Posta Più per coloro che accreditano la pensione entro il 31 marzo, quindi fondamentalmente per la scadenza del 7 di marzo, è gratuito per il 2012. Anche questo è un conto che ha un numero illimitato di operazioni gratuite, estratti conto gratuiti e prelievi possibili presso gli uffici postali, presso gli ATM sia postali che bancari. Quindi da questo punto di vista insomma, Poste spiega le tre possibilità che offre per ottemperare a questo obbligo in tempi così rapidi. Sono, ho capito bene dottoressa Gianardi, sono liberi da oneri? Sì, di fatto, diciamo, per essere precisi, il libretto e la carta INPS nascono, diciamo, liberi da oneri fin da subito. Sul conto corrente abbiamo deciso di inserire una promozione che consenta quindi per il 2012 la gratuità del conto. D'accordo, io ringrazio la dottoressa Gianardi, è stata esaustiva e quindi da questo punto di vista la possibilità di non complicarsi troppo la vita, obiettivamente, controlleremo, verificheremo tutti, ma insomma siamo abituati a considerare Poste Italiane con la sua rete che è la più diffusa sul territorio italiano come quasi uno dei simboli agli occhi degli italiani delle istituzioni della Repubblica, e questo lo è stato nelle sue inefficienze in altri tempi, negli ultimi anni un po' meno, più per l'efficienza che le inefficienze, diciamo per la ristrutturazione e il riavvio all'efficienza, un processo lungo negli ultimi anni, ma insomma che è tangibile e innegabile, c'è anche nei conti, quindi questo mi fa piacere testimoniarlo. E resta il fatto che ai miei occhi il vincolo è un pochino incomprensibile. Presidente Mastrapasqua, lei naturalmente fa la parte del tecnico, questo commissario presidente dell'INPS non è il legislatore, quindi non è a lei che si appuntano le mie considerazioni, però da un punto di vista dal punto di vista del suo istituto, questa soglia, la modalità attraverso la quale lo Stato si mette a livello di tutti gli operatori del mercato e dice applico innanzitutto ai pagamenti che faccio io questa stessa norma sul contante ai pensionati, la persuade? Ma guardi, alcune riflessioni anche sulla base delle, diciamo, considerazioni fatte all'inizio sia da lei che dal dottor Gambarotta. Io sono arrivato nell'istituto nel 2008, fine 2008, ed erano 3 milioni e mezzo, circa 3 milioni e 600 mila le persone che ritiravano la pensione in contante. Ho avuto sul mio tavolo una serie di rapporti, di comunque problemi di sicurezza, varie problematiche, anche problemi di costi, problemi di quello che in tutto il mondo è dichiarato la guerra al contante, quindi non è solamente un problema italiano. E ho fatto un inizio di sensibilizzazione, ho scritto personalmente, cosa mi è avvenuta, a tutti i pensionati, dicendo, quelli ovviamente che erano in contatto, dicendo che esistevano nuovi sistemi, esistevano cose più sicure. In un anno i pensionati sono calati da 3 milioni e 6 a 2 milioni e 2, quindi 1 milione e 400 mila pensionati in un anno hanno deciso, si sono accorti, hanno scoperto, hanno visto che si poteva passare dal contante a strumenti innovativi. Oggi, in un anno oltre il 30%, riconosco, è una percentuale molto significativa. Molto significativa. Che cosa è successo? A settembre ho fatto una seconda, tra virgolette, campagna, ho scritto ai 2 milioni e 200 mila persone dicendo signori, voi, vi ho già scritto, nella piena vostra libertà, è ovvio perché non c'è nessuna volontà coercitiva dell'istituto, e ho avviato questa cosa e stiamo già avendo un ritorno abbastanza consistente di persone che in effetti dicono sì, gli abbiamo dato un opuscoletto, uno schemino con le figurine che fa vedere come si può fare, abbiamo reso la cosa molto semplice. Nel frattempo è intervenuta una legge dello Stato, quindi lo Stato, il governo e il Parlamento hanno votato questa legge, quindi l'istituto, credo in un'ottica di grande trasparenza e comunicazione, poi mi permetto anche una piccola battuta, non polemica ma doverosa, ha ritenuto di inviare una nota a questi 450.000 dell'istituto, dell'INPS e gli altri, anche quelli dell'INPDAP, dicendo guardate che voi siete interessati da una norma, per cui mentre prima era una comunicazione gradita, gradevole, nel quale si diceva guarda che, oggi c'è una norma che imporrà all'istituto, forse, perché poi questo non è ancora chiaro, di sospendere il pagamento se voi non passate a una forma diversa dal contante. Io credo che in una pubblica amministrazione, sempre no, bistrattata, che un istituto scriva a casa di una persona, gli ricordi, la informi, l'INPS avrebbe potuto dire c'è una gazzetta ufficiale, quindi non sono tenuto a comunicare nulla, no, giusto? No, certo, se avesse applicato il vecchio brocardo, nemo censetur, ignorare legge, ma come si diceva un tempo. Quindi vedere oggi che alcuni commentatori più o meno autorevoli, alcuni commentatori di alcune parti sociali, accusano l'INPS di aver fatto una lettera alle persone, alcuni, addirittura uno ha detto l'INPS si dovrebbe ribellare alle leggi dello Stato, beh io credo che poi il dibattito sia sempre giusto diciamo farlo e provocarlo, commentare e dire, ma sempre in un ambito di no, almeno correttezza istituzionale, l'INPS è un ente dello Stato, applica le leggi, cerca di fare in modo migliore, ha ritenuto di comunicare alle persone a casa personalmente dicendo, spiegandogli quali sono i sistemi, credo che i servizi dello Stato, i servizi dell'istituto, soprattutto in una contesto di persone più deboli, quali sono spesso i pensionati, era un qualcosa di dovuto. Questo, chiudo questa parentesi. Quali sono i vantaggi di passare al contante? Poi, ecco, nel merito mi permetto una battuta. Prima di tutto, quando si paga in contanti, voi sapete che le poste soprattutto scadenzano il giorno di pagamento, mentre invece noi diamo i soldi a tutto il sistema il primo giorno del mese. Con un sistema non contante le persone hanno la disponibilità dal primo giorno del mese. Può essere importante, sono pochi giorni di cosiddetta valuta, ma comunque è importante avere la disponibilità dal primo e non dal 5, 10, 15. Secondo, i soldi possono maturare ancorché poco quella piccola parte di interesse. Terzo, c'è la parte della sicurezza. Io ho detto l'altro giorno all'ANSA, e mi scuso col sistema poste, ho detto che c'era un incremento del 17% dei furti nelle poste. L'incremento del 17% è dei furti delle persone che ritirano i soldi, ovviamente dalle poste, che sono il 95%, quindi non negli uffici postali, ma appena escono dagli uffici postali. E questo per un presidente dell'istituto è un fatto che comunque allarma. Poi, se è giusto 1000, 1200, 1500, c'è un Parlamento votato dagli italiani, se hanno scelto 1000, lascio a loro la decisione di cambiarlo e di giustificare la soglia. Ecco, queste sono le argomentazioni sulle quali l'istituto si è andato a muovere. Le faccio un altro esempio, perché Oscar Giannino è persona sempre molto attenta anche su fatti episodici. Noi abbiamo per esempio una distorsione su Napoli. Noi siamo obbligati fino a ieri a pagare in contanti tutta una serie di provvidenze. Le persone si rifiutano di dirci dove abitano, noi mandiamo le comunicazioni non vengono ritirate per vari motivi, le persone si recano presso i nostri uffici, si fanno fare un duplicato, vanno alle poste e con questo duplicato fanno una fila. Parliamo di decine e decine di migliaia di persone al mese che fanno questo. Immaginate che con questo sistema, che noi adesso andremo a tarare se va applicato anche a loro, eviteremo questa cosa che è una sottile linea di demarcazione tra un po' di diffidenza, un po' di delinquenza, un po' di inefficienza. Quindi ecco, immaginate che c'è anche tutto un mondo intorno che ha goduto col pagamento in contante di qualcosa sempre non sempre così chiaro. Ecco, naturalmente l'invito al presidente, già commissario dell'INPS, sotto questo profilo, proprio l'ultimo profilo, che è un punto delicatissimo, perché la questione di rendere poi nel tempo noti, comunicati, in maniera che tutti capiscano come forse, io dico forse, anche attraverso la misura di cui discutiamo oggi, facciamo passi avanti nel diminuire l'opacità di pezzi proprio non proprio secondari di società italiana, che insomma trafficano magari anche non avendo titolo col denaro pubblico e se lo fanno dare. Su questo, eterna gratitudine, naturalmente vedere per credere, come è sempre ovvio che i cittadini debbano ragionare se informati. Io quando parlo di disobbedienza civile non parlo mai di pezzi dello Stato, i pezzi dello Stato non possono che ottemperare alle norme dello Stato. Io mi rivolgo ai cittadini che secondo me hanno dimenticato come l'esercizio critico non significa insultare, non significa pensare male, l'esercizio critico però di fronte a norme che siano invasive della libertà, e le tre sfere della libertà del diritto naturale sono il diritto naturalmente non solo alla libertà, ma il diritto alla vita che viene prima, ma il diritto anche alla proprietà, per chi la pensa come noi, che pensa che c'è un diritto naturale che preesiste a qualunque pretesa dell'ordinamento positivo. Ecco, per chi la pensa così, rinunciare all'esercizio del diritto dovere della critica è un errore grave, e l'esercizio del diritto dovere della critica comporta anche la sfera da secoli entrata, da secoli intendo dai tempi di Socrate, per chi ha letto l'Apologia, che rifiuta di considerare che il voto attraverso il quale viene condannato in quanto filosofo che induce i giovani a non portare rispetto agli dei, rifiuta di ottemperare alla logicità e alla fondatezza di quella norma, di quella sanzione, e pubblicamente, continuando a rifiutare il fondamento di quella sanzione, si espone anche poi agli effetti, tant'è vero che si suicida. Ecco, il diritto dovere alla disobbedienza civile è questo: se parti crescenti dei cittadini italiani tornassero a considerare il diritto dovere della critica, non dell'insulto, compresa poi la maniera pubblica di organizzare forme pubbliche di dissenso a norme invasive delle nostre libertà, io penso che ne conquisteremmo una nuova nuova frontiera di civiltà per tutti gli italiani, invece che soggiacere e basta, magari pensando che chi obietta e lo fa senza mancare di rispetto per nessuno sia al servizio di chissà quali oscure trame. Eccoci qui tornati in studio. Le Poste ci hanno immediatamente fatto notare che il dato citato dal presidente Mastrapasqua ricorda, come ha specificato anch'egli, un aumento delle rapine, ma fuori gli uffici postali, perché nel 2011 rispetto al 2010 invece Le Poste hanno registrato una diminuzione del 9,5% di rapine negli uffici postali. Allora, è con noi Gigi Bonfanti, che è il segretario nazionale della Federazione della CISL, che appunto raccoglie gli iscritti alla CISL, pensionati, ex lavoratori e pensionati, e chiediamo a Gigi Bonfanti cosa pensa di questa misura e se sia convinto che appunto il passo verso la lotta all'evasione fiscale rettamente debba comprendere anche queste misure nei confronti dei pensionati. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. No, io ritengo, innanzitutto sono d'accordissimo con quanto lei ha prima espresso, ma io aggiungerei anche che è una norma vergognosa, perché va ad intaccare anche la parte, diciamo, più umana delle persone, va a intaccare la parte più debole della gente. Pensare che una norma antiriciclaggio debba essere utilizzata sui pensionati fa veramente grida vendetta. Non è immaginabile né possibile pensare a questa norma. Noi combatteremo per far sì che il governo riveda questa posizione, perché non è vero, tra l'altro, tutto quello che si dice in questi giorni. Lo diceva bene il professore all'inizio: per un pensionato, per un anziano, l'avere il fatto di palpare anche fisicamente i soldi, di andare in coda, in fila e ragionare e parlare insieme alla gente, è un fatto estremamente positivo. La gente di cui parliamo è gente che ha problemi a arrivare alla fine del mese, e pensare che questi siano gli evasori fiscali è vergognoso. Il problema nasce da questo, che queste norme sono state fatte in vitro, come dico io, senza mai tener conto della mediazione sociale. Bastava incontrare per 2 ore il sindacato, che faceva presente queste cose, si sarebbe potuto varare norme anche antiriciclaggio, come la CISL da sempre chiede, più efficaci e più efficienti. Invece così abbiamo fatto una norma che non so quali risultati darà sul resto, ma che è penalizzante, mortificante e psicologicamente preoccupante per gli anziani di questo paese. Io aggiungo, tra l'altro, come giustamente alcuni ascoltatori con gli sms fanno notare, che hanno ragione loro, nel senso che il libero da oneri, per esempio per il conto postale, si intende oneri incassati eventualmente dalle Poste. Con la manovra, come sappiamo, è stata estesa anche ai conti postali l'obbligo, la maggiorazione, l'imposta sul bollo, un bollo sul conto che va allo Stato. Quindi naturalmente lo Stato comunque ci guadagna facendovi aprire un conto, allo Stato direttamente e non le Poste. Su questo è correttissimo precisarlo per chi ci ascolta. Restiamo con qualche telefonata. Allora, Gianluca da Milano, prego Gianluca. Sì, forse l'avrà già detto, ribadito qualcuno, ma la questione è molto semplice. Io trovo intollerante di questo governo, diciamo, la parte o la fratellanza col sistema bancario, perché tutto il discorso si riduce, si banalizza, ma penso che sia quello il nocciolo, la verità, è che questo fa comodo alle banche, punto, perché far passare tutti questi pensionati e farli diventare correntisti vuol dire quello che vuol dire. Adesso in termini economici qualcuno farà dei conti, dalla nostra parte, io non sono un pensionato, però mi metto da parte i pensionati, cioè, perché è evidente, non vedo quali altre discussioni, quali altre, poi le questioni della coda imposta, non imposta, mi sembrano banalità da lasciare a qualche sociologo. La questione è puramente economica, contabile, quanto guadagnano le banche da questo, punto. E il fatto che ci sia passera al governo, da quando io ho letto l'elenco dei ministri, ho pensato subito benissimo. Cioè, no, no, io invece, che devo dire la verità, non penso malafede, anche perché in queste norme la mano di Passera non c'è, nel senso che lo dico per scienza e coscienza, queste norme vengono dai vertici dell'amministrazione tributaria tecnica, che poi si confronta con i responsabili politici del ministero, quindi con il ministro Grilli poi le porta a monte. La mano di Passera su tutta la batteria di nuovi adempimenti fiscali non c'è. Ma detto questo, Gianluca, che come tanti pensa male, però io invito anche a riflettere che all'interno dell'ABI, da quello che so io, ci sono anche, sia pur non dette, riflessioni critiche invece, perché per esempio il trasferimento dati di qualunque operazione bancaria dal 1 gennaio all'amministrazione tributaria, non solo dei saldi finali, ma di qualunque operazione su un qualunque conto, di tutti coloro che hanno un conto nel sistema bancario italiano, per esempio, è una operazione che alle banche costa, e non costa poco, e in questo periodo loro non sanno dove sbattere la testa, per i problemi che sappiamo, liquidità, compressione dei margini, degli utili, necessità di ricapitalizzarsi e così via. Tanto è vero che riservatamente gliel'hanno fatto presente al governo, e nella conversione alla Camera di questo articolo è stato previsto che l'amministrazione tributaria dovrà concordare con l'ABI e con il garante della privacy, anche il professor Pizzetti, le modalità attuative del trasferimento dati. Quindi io capisco che tanti come Gianluca pensino male, d'altra parte invece le banche riservatamente fanno capire: ma che cacchio state dicendo, per noi sono costi enormi in più ed è proprio il momento sbagliato per farceli sostenere. Allora, Matteo da Bergamo, prego Matteo. Sì, salve, sono Matteo da Bergamo, volevo fare un breve intervento dal punto di vista tecnico. Ora, il vantaggio che le banche hanno, oltre ai costi di commissione eccetera, è semplicissimo, perché tutti questi pensionati dovranno depositare le loro pensioni presso le banche. Ora, il deposito in realtà, come pochi sanno, ma in realtà è così, non è un deposito in banca, ma noi di fatto imprestiamo i nostri soldi alle banche, che se ne impossessano nel momento in cui, tra virgolette, li depositiamo. Ora, il guadagno che le banche avranno sarà pari a una cifra al sistema bancario, scusate, cosa succede? Nel momento in cui vengono depositate queste somme, le banche, il sistema bancario ha la facoltà di imprestare per una somma pari a 50 volte tanto l'importo di questi, tra virgolette, depositi che non sono depositi. Ora, il vantaggio delle banche è che lucrano un interesse su questa somma, quindi un interesse su una somma pari a 50 volte tanto i depositi che vengono fatti forzatamente dai pensionati. Questo è il vero guadagno, è una sorta di truffa, perché il deposito non è un deposito. Quando noi andiamo in banca e pensiamo di depositare i soldi, non è che li depositiamo, li imprestiamo alla banca. Matteo, certo, questo penso che oggi non sia il caso di riaprire l'annosa questione sulla riserva frazionaria e come le banche creano offerta monetaria e così via. Quella è la modalità con cui il sistema degli intermediari finanziari funziona. Ammetto di sicuro che è ovvio che l'aumento del deposito è un aumento della possibilità, con un elevato moltiplicatore, no? Di impiego da parte delle banche. Questo funziona così per tutta la liquidità. Anche su questo però devo dire che se io mi metto spassionatamente a considerare qual è l'aumento di liquidità che verrà dai 450.000 pensionati che hanno la pensione poco più di 1000 euro al mese, sì, per carità, tutto fa brodo quando le banche sono affamate di liquidità come negli ultimi mesi, ma non sarà certo niente di paragonabile rispetto alla loro vera fame di liquidità attuale. Quindi questo è un'altra riflessione, ringrazio perché ce l'ha fatto fare, però contemporaneamente non mi schiodo dal fatto che comunque mi sembra un procedimento illogico e anche vessatorio. Eccoci qui tornati anche con i Doors, ovviamente. Nel frattempo c'era qualcuno che mandava messaggi, tipo è proprio il giornale radio oggi ci ha detto che c'è il consiglio di amministrazione di Unicredit per l'aumento di capitale a proposito di esigenze del sistema bancario italiano, e effettivamente è così. i grandi soci, tra le prime cose che si apprendono, potrebbero sottoscrivere fino al 24%, insomma, di questo aumento di capitale. Comunque, continuiamo a occuparci di questa norma, il pagamento non in contanti oltre 1.000 euro per le pensioni e obblighi quindi di depositi, di comunicare all'INPS come il pensionato colpito da questa norma intende procedere. Vi abbiamo spiegato le tre possibilità che vi offrono Poste Italiane. Sentiamo Umberto da Roma come la pensa. Umberto, prego. Sì, buongiorno Giannino. Ma dunque, io sostanzialmente volevo ribadire il concetto dell'imposta di bollo, che sicuramente porterà dei soldi allo Stato. Volevo ribadire il concetto della liquidità, che è stato già espresso, ma la cosa importante secondo me è che il pensionato, che è stato sempre abituato a ritirare la posta, alle poste la sua pensione, molto probabilmente alla posta aprirà il suo conto corrente, dove io ho sentito che stamattina è stata fatta anche una bella pubblicità. Allora la domanda che io mi chiedevo era questa qui: ma se Poste Italiane non fosse, diciamo, ancora di proprietà dello Stato e fosse privatizzata, come, diciamo, potrebbe essere una buona idea, visto che poi ci sono state anche altre aperture di mercati, tipo quello del recapito e cose di questo genere, che cosa succederebbe? Poste avrebbe ancora, prenderebbe tutti questi pensionati, riuscirebbe a fare ancora tutto questo fardello di persone? I nostri poveri pensionati che cosa farebbero allora? Sarebbero costretti ad andare di nuovo alle poste, o forse potrebbero scegliere tra le poste e le banche con servizi diversi, con maggior competitività, maggiore aiuto a queste persone che, passata una certa età, diciamo, hanno delle difficoltà oggettive? Io oggi, se guardo un ufficio postale, non faccio altro che vedere code. Ecco, questa è un'altra domanda che io mi ponevo, oltre al discorso economico, fiscale, di guadagno, di controllo e di utilità per delle persone che magari non hanno, diciamo, molta esperienza o comunque non hanno dimestichezza con conti correnti o d'altro. Grazie Umberto, sentiamo ancora Bruno, ci chiama da Roma anche lui. Buongiorno Bruno. Sì, buongiorno. Ma io volevo dire, 1.100 euro, ma nei miei 64 anni non conosco un pensionato che è un evasore fiscale. Ma quanto costa aprire un conto corrente a un pensionato? 36 euro l'anno. Una carta di credito ogni volta che si spende sono 3 euro di spese di posta. Ogni operazione che si fanno sono 80 centesimi. Ma forse il governo Monti ha bisogno di fare cassa. Non può prendere un pensionato che con 1.100 euro andare tre volte al mese o a settimana a prendere 200 euro, cioè una fila. Non funzionano mai i computer, se tante volte si fa lì, stanno 3 ore a fare la fila. Ma i soldi sono miei, li ho sudati, perché non li posso prendere, per Dio? Ecco, Bruno si arrabbia, ma io lo capisco, questo è il punto. Cioè, sul fatto che lo Stato decida la modalità per te, questo a molti di voi, guardate, negli sms ci sono tantissimi che mi accusano di essere arcaico, di non capire, ma cos'è questa storia, Giannino adesso non vuole la moneta virtuale, tutti uniti contro l'evasione fiscale, ma tutti uniti contro l'evasione fiscale che? Dei pensionati a 1.100 euro, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, perdonate, la mia sensazione è che l'evasione fiscale sia ben altrove. La lotta al contante è diventato un mantra generale, molti di voi ne sono convinti, io capisco, sono minoritario oramai. Uno, se però si sente minoritario perché eccepisce su misure di restrizione del contante che lo Stato non solo applica a noi, ma che addirittura applica a se stesso, come se fosse, voglio dire, dovessimo avere il dubbio sul fatto che altrimenti, se lui li dà in contanti, che cos'è? Realizza violazione delle norme antiriciclaggio? Evidentemente no. Quindi il problema è che il sospetto è su quei pensionati. Io su questo mi dispiace, nessuno di voi riesce a convincermi attualmente. Io sono convinto che forse una possibilità esista, ma di politici che la difendano la misura non ne abbiamo trovati. Questa è la verità vera per cui abbiamo fatto parlare le Poste per le modalità tecniche e il presidente Mastrapasqua, che ci ha spiegato la filosofia generale della diminuzione del contante. Però è semplicemente un gesto che così viene addotto a questioni paternalistiche, così vi rubano meno, e io dello Stato paternalista ne farei a meno, perché francamente vorrei fare io il padre e beccarmi lo Stato sotto un po' come figlio, perché lo prenderei tante di quelle sberle e calci in culo che non vi dico, invece i calci li becco sempre io, perdonatemi. Allora c'è ancora Corrado da Padova, prego Corrado. Sì, buongiorno dottor Giannino. Senta, guardi, io concordo con lei sul fatto che non è sicuramente l'elusione fiscale all'interno dell'accredito dei contanti alle pensioni, però non si venga a dire che le file alle poste sono una funzione sociale, mi sembra un'aberrazione veramente incredibile. Quindi non troverà una persona che è contento di fare le fila del no, posto. Questo sono d'accordo, quell'espressione di Gambarotta che si riferiva al fatto che i pensionati così almeno parlano e si incontrano, no, secondo me ha suscitato un mucchio di equivoci, non è che stesse difendendo per così dire l'aperta di tempo, perché lo sportello è uno e quando ci si va in giorni fissi ovviamente il tempo per tutti è denaro e invece lo buttiamo via, però Gambarotta non c'è, lo difendo per così dire per spirito di ospitalità, ma capisco che molti di voi come Corrado da Padova hanno reagito. Allora, grazie anche a Corrado. Torniamo con Gigi Bonfanti. Che si può fare? Cioè, in realtà, qui il problema è naturalmente, oggi abbiamo parlato della norma sui pensionati, però facciamo anche una riflessione più ampia. Il segretario dei pensionati CISL, ma qui c'è una questione più ampia di come confrontarsi con questo governo, mi pare. Voi dite questo non ci ascolta e poi questi sono i risultati. Ci ascoltasse, almeno eviterebbe cose inutili pur condividendo gli obiettivi. È vero o no? No, è verissimo, io spero che il 9, dove è previsto questo incontro, si incominci a ragionare seriamente su queste cose, perché alcune norme, così come sono state previste, l'ha già detto lei benissimo, sono norme che non hanno nessun senso logico. Parlare di evasione fiscale su pensionati con 1.100 euro è una vergogna. Secondo, io sarei un pochettino più tranquillo rispetto al signore di Padova, perché conoscere gli anziani non è una cosa semplice. Guardate, noi abbiamo fatto 20 anni di storia in questo paese giusta sul fatto che gli anziani devono rimanere in famiglia, perché devono avere accoglienza, devono avere... poi dopo invece li trattiamo come se fossero dei numeri e li mandiamo a ragionare di tessera elettronica. Ma lei pensa, immagina un pensionato di 70 anni che va a fare ogni settimana il bancomat per andare a fare la spesa, comprare due miche di pane. Il problema è tutto qui e la psicologia non è una cosa di altri tempi, è una sana operazione che rifà vivere a questo stato le persone umane, se no continuiamo a essere tutti dei numeri, e il pensionato ha questi problemi anche di socializzazione, non è una parola assurda. E secondo, l'altro tema fondamentale, ma il nostro amico Mastrapasqua che si attacca ai furti, ma perché quando il pensionato andrà al banco a ritirare i soldi non avrà lo stesso problema di essere poi scippato? Sono tutte motivazioni che non hanno senso, cioè tutti sanno che è una norma sbagliata e nessuno ha il coraggio di fare la prima mossa. D'accordo, allora io ringrazio Gigi Bonfanti, segretario nazionale della Federazione dei Pensionati della CISL. C'è un dissenso di fondo, io la penso come Bonfanti, c'è un dissenso di fondo. Se oggi leggete l'editoriale della Stampa, mi prendo questi ultimi 10 secondi prima di chiudere, di Massimo Gremellini, dice a proposito della difesa del fisco e dello Stato: secondo il manuale di educazione civica che prende polvere da decenni le nostre librerie, i cittadini sono lo Stato. No, caro Gramellini, per i liberali i cittadini non sono lo Stato. Lo Stato è lo Stato persona, lo Stato comunità fatto da noi tutti cittadini è un'altra cosa. Io non prendo le decisioni dello Stato, lo Stato si rivale su di me. Credere che i cittadini siano lo Stato è frutto di un'ideologia statalista. Chi è liberale non può che dire diffidate di chi dice che i cittadini sono lo Stato, e invece usate la critica e rispolveriamo anche la disobbedienza civile, non per sfasciare vetrine, non per sfasciare la città. Ho finito anche oggi, appuntamento a domani, Lina Giunarelli.